Europa 24. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchesi. Subito in apertura il voto del Parlamento europeo di ratifica dell'accordo di Parigi sul clima. Con una procedura inedita, il Parlamento europeo ha dato stamani a Strasburgo il suo benestare all'intesa sul clima firmata dai 28 in dicembre a Parigi. L'accordo internazionale, che deve servire a tenere sotto controllo il riscaldamento del pianeta, potrà quindi entrare in vigore prima della fine dell'anno. Il benestare europeo giunge attraverso un iter mai utilizzato finora per un trattato internazionale di questo tipo. L'accordo europeo per l'entrata in vigore giunge infatti prima che i 28 paesi europei abbiano terminato le ratifiche nazionali. D'altro canto, nonostante le proteste della Polonia e di altri paesi, l'intesa è forse meno controversa di altre. Su altri fronti, la coesione europea è meno evidente. L'accordo di libero commercio con il Canada è oggetto di trattative difficili tra i 28 che devono decidere la portata dell'applicazione provvisoria, mentre sull'intesa commerciale con gli Stati Uniti i dubbi si sono moltiplicati nelle ultime settimane. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Il PPE è il gruppo più grande al Parlamento europeo. Abbiamo l'ispirazione di avere la presidenza. Lo ha detto oggi il capogruppo dei popolari europei, Weber, a chi chiedeva quale sarà la posizione del PPE davanti alla determinazione dei socialisti di riconfermare Martin Schulz anche per la seconda metà della legislatura. Il PPE ha infatti fissato per il 17 novembre la riunione per definire il candidato ufficiale alla presidenza del Parlamento europeo. Dopo aver fatto erigere una barriera di filo spinato alta 4 metri lunga 180 chilometri confine con la Serbia per bloccare i migranti che risalivano i Balcani, indetto poi un referendum che non ha raggiunto il quorum, Orban continua nella sua battaglia sui migranti contro l'Unione Europea, nonostante i flussi quasi azzerati in Ungheria. Continua il braccio di ferro in Europa sulla crisi dei migranti dopo il referendum ungherese voluto dal premier Viktor Orban che, nonostante la mancanza del quorum e i richiami di Bruxelles, rilancia con nuove sfide. Le cifre però parlano chiaro. Circa 400.000 migranti sono passati dall'Ungheria nell'ultimo anno tentando di entrare nell'Unione Europea, ma i flussi sono ormai azzerati e l'asilo è stato concesso solo a 508 rifugiati. Orban però ha scelto di ignorare questi numeri. L'Unione Europea dovrà tener conto della consultazione anche se non è stato raggiunto il quorum, aveva detto subito dopo l'annuncio dei risultati. Poi ha rilanciato e facendosi forte del 98% dei voti contrari alle quote obbligatorie dei 3,2 milioni di cittadini che comunque alle urne ci sono andati, ha annunciato in aula a Budapest un'iniziativa di modifica della Costituzione nello spirito del referendum per vietare trasferimenti di cittadini stranieri nel paese senza l'approvazione del Parlamento. Una commissione preparerà il testo della modifica anche se in forse perché l'Assemblea nazionale dei deputati non è tenuta a recepirlo. Il voto ungherese non è una pietra tombale sulle riforme del regolamento di Dublino che mira a quote permanenti e ha sciolto i timori di un rafforzamento della linea dura dei Visegrad, Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e di movimenti euroscettici. Dall'esecutivo comunitario comunque un no comment, anche se dal portavoce Margaritis Schinas è arrivato un chiaro altolà. Budapest deve rispettare il piano di ricollocamenti di richiedenti asilo già decisi perché sono legge dell'Unione, ha messo in guardia richiamando la possibilità di azioni future se non lo farà. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Europa 24 torna questa sera all'interno di Effetto Notte. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.